Canto diciottesimo della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto diciottesimo. Luogo è in inferno, detto Malebolge, tutto di pietra, e di color ferrigno, come la cerchia che d'intorno il volge. Nel dritto mezzo del campo maligno vaneggia un pozzo assai largo e profondo, di cui suo luogo conterà l'ordigno. Quel cinghio che rimane adunque è tondo, tra il pozzo e il piede l'alta ripa dura, e ha distinto in 10 valli il fondo. Quale, dove per guardia delle mura più e più fossi cingon li castelli, la parte dove i son rende figura. Tal imagine quivi facean quelli, e come a tai fortezze da lor sogli alla ripa di fuor son ponticelli. Così da imo della roccia scogli movien che recidean gli argini e i fossi, infino al pozzo che i tronca e raccogli. In questo luogo, dalla schiena scossi di Gerion, trovammoci, e il poeta tenne a sinistra, ed io dietro mi mossi. Alla man destra vidi nuova pieta, nuovi tormenti e nuovi frustatori, di che la prima bolge era repleta. Nel fondo erano ignudi peccatori, da mezzo in qua ci venian verso il volto, di là con noi, ma con passi maggiori, come i roman per l'esercito molto, l'anno del giubileo su per lo ponte, hanno a passar la gente modo tolto, che dall'un lato tutti hanno la fronte verso il castello e vanno a Santo Pietro, dall'altra sponda vanno verso il monte. Di qua, di là, su per lo sasso tetro, vidi dimon cornuti con gran ferze che li battean crudelmente di retro. Ahi, come facean lor levar le berze alle prime percosse, e già nessuno le seconde aspettava, né le terze. Mentr'io andava, gli occhi miei in uno furo scontrati, ed io sì tosto dissi: già, di veder costui non son digiuno, perciò a figurarlo i piedi affissi, e il dolce duca meco si ristette, ed assentì alquanto indietro io gissi. E quel frustato celar si credette abbassando il viso, ma poco gli valse, ch'io dissi: tu, che l'occhio a terra gette, se le fazion che porti non son false, ve ne dico se tu caccia nemico, ma che ti mena si pungenti salse? Ed egli a me: mal volentier lo dico, ma sforzami la tua chiara favella che mi fa sovvenir del mondo antico. I fu colui che la ghisola bella condussi a far la voglia del marchese, come che suon la sconcia novella. E non pur io qui piango bolognese, anzi, n'è questo luogo tanto pieno che tante lingue non sono ora apprese. A dicer sipa tra Saveno e Reno, e se di ciò vuoi fede o testimonio, recati a mente il nostro avaro seno. Così parlando il percosse un demonio della sua scurriada e disse: via ruffian, qui non son femmine da conio. Io mi raggiunsi con la scorta mia, poscia con pochi passi divenimmo dove uno scoglio della ripa uscia. Assai leggeramente quel salimmo e volti a destra su per la sua scheggia, da quelle cerchie eterne ci partimmo. Quando noi fummo là dove el vaneggia di sotto per dar passo agli sferzati, lo duca disse: attienti e fa che feggia lo viso in te di quest'altri malnati, ai quali ancor non vedesti la faccia, perché son con noi insieme andati. Dal vecchio ponte guardavamo la traccia che venia verso noi dall'altra banda e che la ferza similmente schiaccia. E il buon maestro, senza mia dimanda, mi disse: «Guarda, quel grande che viene e per dolor non par lagrima spanda, quanto aspetto reale anco ritiene. Quelli è Giason, che per cuore e per senno li colchi del monton privati fene. Ello passò per l'isola di Lenno, poi che l'ardite femmine spietate tutti gli maschi loro a morte dienno. Ivi, con segni e con parole ornate, Isifile ingannò la giovinetta che prima l'altra avea tutte ingannate. Lasciolla quivi gravida e soletta, tal colpa a tal martiro lui condanna, ed anche di Medea si fa vendetta. Con lui sen va chi da tal parte inganna, e questo basti della prima valle sapere, e di color che n sé assanna. Già eravam là, ve lo stretto calle, con l'argine secondo s'introcicchia e fa di quello ad un altro arco spalle. Quindi sentimmo gente che si nicchia nell'altra bolgia e che col muso sbuffa e se medesma con le palme picchia. Le ripe eran grommate d'una muffa per l'alito di giù che vi s'appasta, che con gli occhi e col naso facea zuffa. Lo fondo è cupo sì che non ci basta luogo a veder senza montare al dosso dell'arco ove lo scoglio più sovrasta. Quivi venimmo e quindi giù nel fosso vidi gente attuffata in uno sterco che dagli uman privati parea mosso. E mentre ch'io laggiù con l'occhio cerco, vidi un col capo sì di merda lordo che non parea s'era laico o cherco. Quei mi sgridò: «Perché sei tu sì ingordo di riguardar più me che gli altri brutti?» Ed io a lui: «Perché, se ben ricordo, già t'ho veduto coi capelli asciutti e se Alessio interminei da Lucca, però t'addocchio più che gli altri tutti». Ed egli allor, battendosi la zucca: «Quaggiù m'hanno sommerso le lusinghe, ond'io non ebbi mai la lingua stucca». Appresso ciò lo duca: «Fa che pinghe», mi disse, «un po' col viso più avante, sì che la faccia ben con gli occhi attinghe di quella sozza scapigliata fante che là si graffia con l'unghie merdose ed or s'accoscia ed ora è in piedi stante. Taida è la puttana che rispose al drudo suo quando disse: «O io grazie grandi appo te, anzi maravigliose!» E quinci sian le nostre viste sazie. Fine del canto 18.